Avete davanti a voi 4 salite da 10 minuti, 3 discese da 5 minuti e 6 curve da 2 minuti. Quanti minuti servono in totale per completare il percorso?